Matteo, capitolo 24. E come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i Suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, «Vedete tutte queste cose? Io vi dico, in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». E stando egli seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo, «Dicci, quando s'avvereranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro, «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome, dicendo, «Io sono il Cristo», e ne sedurranno molti. Or voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre? Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per toglier quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e da quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non v'è stata uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcun vi dice, il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non v'andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avverate. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno e da quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi il diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie e si andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzar la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto al suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo «il mio padrone tarda a venire» e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti.